entriamo nello studio di Antonino, quindi come sempre abbiamo cura dello spazio che stiamo per abitare. Lasceremo le borse all'ingresso dopo le scale, vi faremo vedere, seguiteci come sempre nella disposizione. Io adesso ricordo che è un... Sento un James Bond quando apro le porte degli altri. Big Bang. Alla destra della scala, quando scendiamo, puoi lasciare le borse se sei là. Thank you. Non lo provi io. Thank you. Vieni. Siamo proprio per gli altri. Siete stanchi? Al prossimo appuntamento. Grazie. Grazie a voi.